Buonasera, buonasera e benvenuti e ben ritrovati, ovvero ben ritornata io dopo due settimane di assenza in cui Mighty FM non è andata in onda, o meglio sono andate in onda le ultime puntate fatte all'inizio di questa sesta stagione. Chi vi parla è Claudia Mighty Mau, sempre in diretta dagli studi di Radio Kairos presso il TPO via Casarini 17/5 Bologna. Siamo tornate in questa metà di febbraio in cui le giornate già si allungano e si sente un'aria un po' friccicorina di primavera, per parlare invece di un album eminentemente invernale, ovvero l'album del quartetto di Calgary che si chiamano Viet Cong. D'altra parte, insomma, una città come Calgary, famosa per gli sport invernali, non poteva che produrre della musica invernale ad opera appunto di questo quartetto che si è formato, ma ne parleremo diffusamente, diciamo, sulle ceneri, però appunto dando luogo ad una fenice, però con un piumaggio completamente diverso, e con un album omonimo hanno esordito adesso all'inizio di quest'anno. In realtà l'album era già pronto, però diciamo che per motivi strategici, no, insomma, si fa uscire nell'anno nuovo, così vediamo se se la può giocare con altri titoli, come insomma magari tra i migliori album di questa nuova stagione discografica. Questo gruppo l'avevamo già sentito con il pezzo, diciamo, principale, che ha avuto abbastanza successo, tanto da essere contenuto nell'elenco delle 100 canzoni migliori, anzi tracce migliori del 2014 secondo Pitchfork e secondo noi, e quindi in quanto tale l'avevamo fatta sentire nella puntata conclusiva prenatalizia a fine 2014. L'ascolteremo chiaramente, scusate la ripetizione, ma non se ne poteva fare a meno anche in questa puntata. Ma iniziamo come sempre con il brano che apre questo album omonimo, abbiamo detto Viet Cong, e il pezzo è Newspaper Spoons. Le percussioni che sono state definite come qualcuno che batte i pugni nella bara e cerca di uscire fuori, un suono distorto, infatti anche di distorsione si parla nel testo della canzone, di violenza, per un modo tantinante, quasi rituale, che mi ha fatto pensare un po' ai Liars, un po' ai primi Klaxons adepti di Aleister Crowley. E poi magicamente diventa quasi una ninna nanna post-apocalittica. Questa era Newspaper Spoons, primo pezzo d'apertura di Viet Cong, album omonimo dei Viet Cong provenienti da la fredda città di Calgary, per un album che è stato registrato con l'aiuto e l'assistenza, non precisamente questo, però diciamo i dischi precedenti nella loro precedente incarnazione, ovvero l'incarnazione di metà di questa band, ovvero i Women. Comunque un disco, quello di Viet Cong, che rimane pubblicato per il mercato canadese nell'etichetta Flemish Eye. Flemish Eye è la creatura di un cantautore e anche appunto produttore e anche ingegnere del suono, ovvero Chad Van Galen, quindi anche molto orgoglioso delle sue origini fiamminghe. E ci ascoltiamo un pezzo che si chiama Frozen Paradise. Come dicevamo, fondatore della Flemish Eye, etichetta canadese, per cui prima i Women e poi anche adesso i Viet Cong incidono per il mercato canadese. Invece il mercato internazionale americano è la gloriosa Jag Jaguar. Appunto Chad Van Galen, oltre ad aver prodotto il primo album omonimo dei Women nel 2008, utilizza, diciamo, due membri dell'attuale formazione di Viet Cong, ovvero Matt Flegel e Scott Montimarro, come musicisti della sua band live on tour. Ed è stato proprio quando erano in tour con Chad Van Galen che Scotty e Matt hanno avuto l'idea insomma di formare una nuova band nel 2011, quando ancora, diciamo, il peggio non era successo, però la storia dei Women aveva preso già un po' una brutta piega. Comunque questo pezzo di Chad Van Galen è tratto da Shrink Dust del 2014, candidato al Polaris Prize, ovvero l'equivalente del Mercury o del Grammy dei rispettivi mercati discografici, in questo caso appunto canadese, un po' una Canadian Invasion in questa trasmissione. Cantautore, diciamo, di stampo folk, un po' sufiano. Ma ho scelto questo pezzo che è l'unico che un po' si differenzia, perché è un po' psichedelico, con quel tocco elettronico che l'avvicina al Sufjan di invece di Age of Oz, e che mi fa ricordare anche il misconosciuto Jack Bragg, che invece amavo molto, tanto che sono andata anche sui Monti Vicentini per andarlo a vedere. Ma torniamo al secondo pezzo, ascolteremo tutto l'album omonimo dei Viet Cong di cui parliamo oggi a Might FM. Questo secondo pezzo, spesso citato per una frase che contiene, si chiama Pointless Experience. Yeah. la frase che dicevo più ricitata di questa canzone è: if we're lucky, we're gonna get old and die. Se siamo fortunati, invecchieremo e moriremo. Questa è una amara riflessione dovuta al fatto che uno dei membri dei Women, 26 anni, Chris Reimer, all'inizio del 2012 è morto nel sonno per una complicazione di una malattia cardiaca. Sempre riferimento musicale, io anche un po' per il tipo di voce lo contestualizzo nel Regno Unito tra più o meno tra il 77 e l'84. Si può far pensare Gang of Four, beh, anche il nome, la banda dei quattro, diciamo che ha un'assonanza con i Viet Cong. Cioè, praticamente la storia è questa. I Women, dopo il secondo album Public Strain nel 2010, erano in tour in Canada. Un concerto finisce molto male perché i due fratelli, Matt, bassista attuale, diciamo frontman dei Viet Cong, e suo fratello, chitarrista voce dei Women, Pat, si mettono le mani addosso, si menano in scena, e il manager cancella il tour. Tra l'altro, poco dopo sarebbero dovuti anche venire in Italia per quattro date, al Bronson di Ravenna, a Genova, Roma, Firenze. Tour cancellato, poi viene insomma annunciato che il gruppo si prende un momento di pausa. Nel frattempo, appunto, nel 2011 Matt e Scott Marrow sono in tour con Chad Van Galen in Europa. Contemporaneamente Chris Reimer suona in tour con un altro gruppo canadese, Dodos. Avevano già parlato i due con Chris per dire se volevano ancora insomma collaborare insieme, e appunto all'inizio del 2012 Chris Reimer muore nel sonno a 26 anni. E appunto in un'intervista Matt dice, cioè, è stato come insomma una grossa sveglia, cioè lui si è detto tipo: cazzo, moriremo tutti, moriremo, facciamo qualcosa prima che sia troppo tardi. E hanno richiamato Matt Wallace, batterista dei Women, hanno richiamato un vecchio amico, Danny Christensen, che suonava la chitarra in una cover band di Black Sabbath, in cui suonavano sia il batterista Wallace che lui, Matt Flagel, e hanno messo insieme i Viet Cong. E la canzoncina che stiamo ascoltando in sottofondo invece è degli Holy Fuck. Perché? Perché l'album di cui parliamo oggi è stato prodotto da Graham Walsh, magari non solo per, che appunto era uno degli Holy Fuck, che dopo tre album anche loro non stanno più facendo niente, perché non tanto magari per una questione di affinità tanto musicale, per una questione proprio di amicizia. Lui è fidanzato di una loro cara amica e si sono trovati a registrare Viet Cong in un fienile granaio convertito a studio nell'Ontario, appunto di proprietà di Graham Walsh, Holy Fuck, di cui adesso stiamo ascoltando Lovely Allen, tratta dal secondo album degli Holy Fuck del 2007, chiamato LP. E adesso ci abbiamo attaccato un remix di questo pezzo, un remix particolare innanzitutto perché dura 1 minuto e 40, poi perché dei No Age, che spesso vengono richiamati nelle varie recensioni in associazione ai Viet Cong, per cui noi abbiamo preso due piccioni con una fava. questa era la rilettura molto breve di Lovely Allen degli Holy Fuck, gruppo di Toronto, e diciamo elettronica solo strumentale, ma non stiamo parlando di Vietcong. Arriviamo al pezzo che viene considerato il centerpiece e che a me ha veramente stravolto, uno veramente delle punte diamante di questo album. Si chiama March of Progress, anche citato nella presentazione di questa trasmissione, perché veramente quella che fanno i Vietcong è una marcia trionfale, che partono da riferimenti molto chiari del passato, ma appunto loro procedono in linea retta, saldamente, direttamente verso il presente. E questo è uno dei vari esempi della loro abilità di iniziare in un modo, poi bruscamente prendere, fare tipo una curva a gomito, si dice left turn, cambiare completamente stile, lasciando un po' spiazzati, e poi trovano il modo più sorprendente, meno scontato, per riuscire a ritornare da dove erano partiti. Che per quasi 4 minuti procede con questo drone, cioè questa nota ripetuta, drone, vero bordone, e poi entra una chitarrina e la voce e sembrano i Beach Boys. Ma per me anche le Esler Set di Catherine Sales. E poi dopo questa arriva la terza parte, un altro salto, altri 20 anni avanti, e si arriva a Londra. A livello di contenuto il secondo intermezzo sembrava come fosse un'industria discografica a parlare, oppure mettere le mani avanti, diciamo mettere le parole in bocca ai possibili critici della stampa musicale, perché dicono: la tua reputazione ti precede, vi precede, siamo tutti sufficientemente colpiti e questa incessante marcia di progresso può garantire il nostro sicuro successo. Però l'ultima parola, l'ultima frase invece di questa ultima parte è quella della differenza tra l'amore e l'odio, perché chiaramente le riflessioni esistenziali da appunto Pointless Experience a Death, l'abbiamo già nominato nella presentazione, 11 minuti dedicati alla morte, appunto, che staglia la sua ombra abbastanza lunga, perché abbiamo spiegato insomma quali sono i precedenti di insomma di questo gruppo, insomma da dove arriva da appunto la musica dei Women, di cui adesso noi ci ascoltiamo un mélange di tre pezzi, la bellissima Black Rise dell'omonimo del 2008, che è questa. Un pezzo molto luminescente dei Deer Hunter, che vengono anche loro nominati in relazione anche ai Viet Cong. Proprio sui controtempi di chitarre acute, molto alla television, e questo è l'intro di Heat Distraction, invece tratto dal secondo e di ultimo album considerato un capolavoro, Public Strain del 2010. Ma c'è anche un altro pezzo in quest'album, China Steps. Il suono e il ritmo sono proprio l'inizio di Marky Moon di Television. E tutti e due i dischi dei Women, sempre pubblicati dalla Flemish Eye e dalla Jazz Jaguar. Adesso sono passata al terzo contributo dedicato ai Women, ovvero Locust Valley. Valley, ho scoperto perché qui si studia, è uno dei due pezzi contenuti in Public Strength dedicati alle vicende dell'artista Ray Johnson, artista pop e New Dada 1927-1995. E allora mi sono andata a vedere un po' la biografia di questo artista, e quindi Locust Valley è la cittadina nello stato di New York in cui ha vissuto, mentre un altro pezzo, Venice Lockjaw, era quello che lui aveva scritto in delle spillette che aveva distribuito ad una biennale di Venezia. Allora, leggendo la sua storia, ho capito, perché Wikipedia non lo diceva, allora ce l'ho scritto io, che anche in Women, l'album precedente, c'era un pezzo, diretto, proprio un riferimento direttissimo alle vicende di Ray Johnson, ovvero Sag Harbor Bridge, perché appunto è un ponte da cui nel 95, a 67 anni, questo artista si è buttato e si è suicidato. Chissà chi nella band The Women era così, diciamo, ossessionato da questo artista. Siccome abbiamo nominato i Deer Hunter, perché appunto sono diversi i punti di riferimento che vengono nominati per i Viet Cong, è anche molto presente anche nel suono del primo EP, diciamo un tour EP diffuso prima di questo vero e proprio debutto album omonimo. Era un EP che si chiama Cassette, che ascolteremo anche molto estesamente, dicendo che i Viet Cong sono una versione più pesante dei Deer Hunter, e anche un po' appunto per questi sprazzi psichedelici, anche se Bradford Cox ha più una predilezione per rock and roll più anni 50 e 60. E ci ascoltiamo da Monomene del 2013 un pezzo che si chiama Punk La Via Interiore. da Monomania, il brano conclusivo Punk, la Vie Intérieure, però col Covid si è rotto tutto, già voglio dire che è fragile, ho fatto un incidente un po' di tempo fa, chissà se si è ripigliato. Per una canzone al testo molto ironico, per una settimana sono stato punk, per una settimana sono stato queer, non ero più solo ma era un po' noioso. Appunto, dicevo, i suoni degli Ranter si ritrovano molto in Cassette, che è stata appunto una cassetta registrata per avere del merchandise da vendere in un tour che hanno fatto, che loro dicono che è stato insomma il primo vero test come band nel 2013, fondamentale, un tour di 7 settimane in supporto ai Freak It Waves, altra band canadese. L'ultimo momento fanno una cassetta con 7 pezzi, lui dice che erano un po' delle robe registrate un po' a cavolo, cioè di lui e Scott Moore che facevano un po' di cazzeggio appunto proprio nella cantina di Scott, l'hanno messi insieme e dopo la gente diceva ma si chiama cassetta perché è su cassetta o si chiama cassetta? Si chiama cassetta, ma anche in realtà non aveva neanche un titolo. E poi invece è stato anche ripubblicato in CD l'anno scorso e appunto diciamo aperto la strada a questo debutto. Adesso proprio visto che non c'è un mashup dell'album di cui parliamo, abbiamo fatto un mashup molto lungo di Cassette perché ne valeva la pena. Per esempio questa Throw It Away, c'è una batteria post-punk 78-79, un po' dei primissimi Joy Division, invece poi invece il testo, la musica, la melodia un po' scanzonata, tipo Gang of Four o XTC, invece al momento del cambio questa chitarra ancora Joy Division, secondo me. Insomma un basso inconfondibilmente Interpol, e invece la voce un po' più melodica, questa è Unconscious Melody, per un cantato un po' tremolante stile This Hit, gruppo art rock anche lì insomma fine anni 70 di cui parleremo più tardi, grande passione di Matt Flegel. Appunto lui dice sì, provavamo un po', suonavamo diversi strumenti, hanno anche usato un dildo vibratore come strumento per questi pezzi qua, insomma volevamo registrare qualcosa da portare in tour e abbiamo preso un po' questi pezzi a caso. Io non credo che sia a caso, perché prima dell'uscita di Viet Cong dicevano che erano insomma i migliori pezzi che avevano sotto mano, dopo l'uscita del disco dicono che erano come delle B-side, diciamo una collezione ideale di B-side, che erano i pezzi che sapevano che sicuramente non avrebbero voluto nell'album Viet Cong. Questo per esempio Oxygen Feed è un salto all'indietro, sembra appunto un pezzo che viene direttamente dalla prima era della psichedelia della fine anni 60, quella immortalata da un album seminale, ovvero Nuggets. Nuggets Original Artifact from the First Psychedelic Era 65-68, e anche qui la linea vocale mi ricorda molto i Dirante. E ancora in più di più i Dirante, il loro suono acquatico tipico di un pezzo come Helicopter, questa Static Wall. chiaramente appunto un EP interlocutorio di una band che ancora insomma stava vedendo che direzione prendere, perché appunto il suono, a parte tecnicamente, chiaramente il livello della registrazione in Vietcong è molto più curato, pulito, nitido, e appunto anche a livello appunto di stile e suono, sebbene Vietcong spicchi appunto per la sua ecletticità, si capisce che il cassetto era ancora un prodotto molto grezzo. Si cambia ancora registro con Structureless Design, un pezzo veramente darkettone. Pezzo che però ha una melodia e un'apertura inaspettata. Che il pezzo dopo è questa cover incazzatissima di Dark Entries di Bauhaus, quindi insomma sicuramente un suono abbastanza sparso, perché appunto due pezzi molto psichedelici, due pezzi un po' con dei suoni post 77, dei suoni tipo Nuggets, poi arrivano i Bauhaus in questa Dark Entries che mi ricordo quando la mettevano all'Oceanic di Civitanova nell'87, dovevi lasciare la pista per non essere investito da darkettoni con creste di 40 cm che la attraversavano a scheggia. Mentre appunto dicevo, l'album Vietcong ha un suono più coeso, rifinito, anche se per loro essere coerenti è partire da un punto, da uno stile, poi appunto cambiare completamente direzione e poi cercare di ritornare indietro in modo più originale possibile. Con un ritmo e un suono che ricorda moltissimo la malinconia e desolazione di New York Cares, degli Interpol, bellissimo esordio di Come on the Bright Lights, e si chiama Select Your Drone. Anche se poi anche qua arriva un bel cambio, la cui batteria invece mi ricorda ancora i primissimi Joy Division, tipo quelli di Failure e Novelty, quei pezzi contenuti in Substance. avreste capito cosa intendevo. E quindi insomma puntata tipica, perché ascoltiamo tutto l'album di cui parliamo, e non solo, questo EP precedente, sempre in 7 pezzi, abbiamo fatto un super mashup come mai in passato, ovvero quasi 10 minuti per 7 pezzi, ma appunto siccome abbiamo nominato prima gli Interpol un paio di volte, che io insomma sono veramente il mio punto debole, loro qualsiasi cosa fanno da 12 anni a questa parte, io... Insomma, anche per me quest'ultimo è il Pintor, che è semplicemente un anagramma di Interpol, è molto bello, ma io appunto sono una sentimentale. E poi su questo disco c'hanno questa cosa, sono sempre loro, assolutamente riconoscibili, però ci sono comunque delle nuove soluzioni, c'è un minimo di originalità, come per esempio in Sometown You Stay. Vabbè, chiaramente uno dei pezzi preferiti è All the Way Back Home, che vabbè, i motivi biografici, tipo di tensione e testo, insomma, mi fa piangere, e invece stiamo ascoltando My Desire, di cui sono stati fatti diversi remix, anche da Dave Guernsey, diciamo il remixer ufficiale dei Factory Floor, e secondo il loro stile sempre irriconoscibile, è una roba completamente diversa. Poi c'è anche il remix di Beyond the Wizard's Sleeve e di Man Without Country. E comunque questa trasmissione è anche un po' una anticipazione, un po' una preview del Primavera Sound Festival, perché i Viet Cong suoneranno al Primavera Sound Festival di Barcellona a fine maggio, e poi il suo fratellino più rocchettone, forse più anziano, cioè più recente come festival, però come più anziano come contenuti, di Porto, il primo weekend di giugno, a cui insomma noi siamo diventate delle afficionate partecipatrici, e in mezzo Viet Cong però suoneranno anche sempre appunto all'inizio di giugno al Beaches Blue, ovvero il festival grande happening organizzato dal Bronson all'Ana B, sempre in modo incredibilmente gratis. Cosa bella che mi ha fatto saltare di gioia quando hanno comunicato la line-up è che gli Interpol saranno anche loro a Porto, perché prima del programma di Barcellona, poi incroci le dita sperando che di quel più o meno metà terzo di nomi ci capitino quelli che ti piacciono, poi non andare mai a riguardare il programma di Barcellona, sennò ti prende mano, scordati quelli che desideravi e che invece non ci sono, ovvero Olivia. E sarà probabilmente la settima volta che vedrò gli Interpol dal vivo, sono molto felice, e visto che è online, no, era online poco fa, vabbè, volevo dedicare questo pezzo a Albe, Mi sa perché? Manca Jarno, manca Sabri, manca a me, manca a Olivia. E andiamo avanti, ritorniamo invece nel presente col disco di cui parliamo oggi, veramente, ovvero Viet Cong, omonimo Viet Cong, questo è Bunker Buster. Television USA Punk No Wave, e con questa batteria diciamo una versione più rocchettona dei Blur, dei pezzi più rocchettoni dei Blur, lo so è un'esagerazione, ma anche appunto per il modo di cantilenato di cantare questi tipi di versi così tipo loop circolare anche un po' alla Liars, e poi questa apertura che sembravano i Pixies. Viet Cong, quartetto di Calgary, Matt Flagel, Mike Wallace, Scotty Monroe e Danny Christiansen, provenienti da Alberta, Canada occidentale, una cittadina conosciuta almeno a me, al mondo, insomma, per le Olimpiadi invernali nell'88, un posto dove insomma fa abbastanza freddo, d'inverno la temperatura non arriva oltre i meno 3, mi pare. E dice Matt Flagel che appunto fare musica, registrare, fare pratica in uno studio, creare eccetera, è quello che ti tiene sano di mente durante questi lunghi inverni canadesi. Fum viene definito genericamente, generalmente, post-punk labirintico. Diciamo che l'estetica post-punk si ritrova anche nell'estetica della foto di copertina, dove c'è questa foto in bianco e nero sgranato di una mano che tiene delle forbici che tagliano delle bende che fasciano la mano di un pugile. E finisce Bunker Buster. E appunto, prima abbiamo nominato This Heat, questo gruppo a me non conosciuto, sconosciuto, ma appunto mi piace fare questa trasmissione perché imparo un sacco di cose, a cui appunto Matt Flegel si ispira. È un gruppo inglese di rock sperimentale, art rock, formatosi nel 76 a Londra e che poi è stato in attività solo fino al 1982. Hanno fatto un paio di album, mi pare. Sì, un disco omonimo nel 79 e un secondo nell'81 che si chiama This Heat. E nelle parole di Matt Flegel, proprio la sua aspirazione sarebbe riuscire a fare un disco come questo, è proprio la sua meta, la sua pietra di paragone. E da quest'album This Heat stiamo ascoltando A New Kind of Water. In chat mi dice: ma come, non conoscevi This Heat? Sono un piccolo culto. E io appunto sono un piccolo culto. E poi io dico sempre, insomma, la verità, non mi do le pose che dico che conoscevo le cose e non è vero. In questo disco This Heat vorrei segnalare anche un altro pezzo, perché sono sempre indecisa nel scegliere quale pezzo far sentire. Triumph, che mi ricorda molto la musica di Liquid Sky, film fondamentale della mia esistenza, che è assolutamente contemporaneo a questo disco, 1980, New Wave newyorkese, e poi post-punk, come dice, post-punk, New Wave, però post-punk è anche il 1978, dove già i suoni cominciano ad evolvere. Ma ci avviciniamo a Continental Shelf, la canzone che abbiamo già sentito nella collezione delle best 100 tracks dei Pitchfork e Mike FM a fine dicembre. Un pezzo che è questo, che è stato definito come due mega riff proprio da arena, da stadio, messi in lotta, insomma, a fare a botte, a scontrarsi uno contro l'altro. Bellissima, è anche qui, insomma, il primo verso dice: quando tutto è stato detto e fatto, starai in giro finché non te ne sarai andato. Insomma, anche qui la fine. Shelf è stata mandata appunto in avanscoperta, come dire, ecco, ci siamo, beccatevi questa. E un altro pezzo che era contenuto sempre, ma parliamo comunque sempre nelle ultime 20 posizioni, mi pare dal 70-80 in poi, che eravamo in dubbio se mettere nella puntata delle 100 Best Tracks del 2014, era dei sempre canadesi Out, che anche loro suoneranno al Primavera Sound di Barcellona, al Primavera Sound di Porto e al Beaches Brew. Il pezzo preferito da Pitbull si chiamava Habit, invece questa si chiama Around Again, tratto sempre dall'EP More Than Any Other Day del 2014. Ma qualcuno forse qui a Bologna perlomeno l'avrà già visti, visto che l'8 novembre scorso hanno suonato al Covo. Yeah. stiamo veramente coprendo tutta la nazione, anche loro canadesi, però di Montreal. Appunto, oltre a dividere insomma il palco nei concerti tra maggio e giugno, l'hanno già diviso insieme a Viet Cong, nel senso nei primi concerti europei, quindi insomma un debutto importante a ottobre, hanno suonato insieme sia a Londra che a Bruxelles. Ecco, siccome questo pezzo dopo è abbastanza lungo, comunque ne abbiamo fatto una versione editata, ma non dei pezzi invece dell'album dei Viet Cong. Anche qui insomma sono dei suoni un po' familiari, eh? Come anche da Montreal vengono i Wolf Parade, e gli furono Wolf Parade, in quanto adesso insomma non esistono più come band dopo tre album, Apologies to the Queen Mary, At Mount Zoomer e Expo 86, da cui stiamo ascoltando questo pezzo che si chiama Cloud Shadow on the Mountain. A parte che questo pezzo qua sembra quasi Temple of Love, con un registro di voce un po' diverso, però a me me l'ha fatto assolutamente pensare subito. Appunto vengono chiamati in causa i Wolf Parade, o più specificatamente il cantante Spencer Krug, appunto per la voce, per il tono, per il timbro usato da Matt Flagel, ed essendo appunto anche loro canadesi, ma sì dai. Comunque, nonostante tutti i testi così tetri, desolati, la morte, l'inutilità dell'esistenza, che erano anche un po' l'esistenzialismo, era anche un po' il tema dei testi contenuti in cassette, anche in un'intervista ho letto, Matt dice sì, praticamente parlavo insomma della ridicolaggine dell'essere, dell'esistere, dell'esistenza, che appunto molte volte le persone si prendono un po' troppo sul serio, però insomma anche lui questo peso del... che l'esistenza insomma è una, l'ha sentito molto bene appunto quando c'è stata la disgrazia della morte di Chris Reimer, e appunto lui ha detto shit, we're going to die, fuck, facciamo qualcosa prima che sia troppo tardi. Ma comunque come persone non sono assolutamente dei tristoni, si può vedere nelle foto della band che circolano in rete, anche che sono state usate per la promozione di questo Might FM, e poi appunto leggendo articoli come l'intervista nella sezione Rising di The Pitchfork, e anche nell'elenco di guest list in cui appunto vengono chieste insomma cose curiose per farle un po' conoscere appunto come persone, e nel loro caso anche nel lato un po' più divertente. In cui parlano appunto dei doppi lavori, cioè tutti loro hanno dei doppi lavori, tipo Scott consegna cupcakes, Matt fa i pavimenti, il flooring nella ditta del padre, però forse adesso ha cambiato, devo andare a leggere cosa che fa perché sennò gli rovina troppo le mani. Poi c'è Danny Christiansen che invece fa qualcosa legato all'architettura, però immagino che dopo l'uscita di Viet Cong e il tour mondiale che adesso intraprendono forse non avranno bisogno di mantenere l'altro lavoro. E questi erano i Wolf Parade con Cloud Shadow on the Mountain, tratto da Expo 86 del 2007 2008 no 2010 Ale. E questo qui è il secondo video e singolo, forse Silhouettes. A volte la voce gli cambia, per esempio nel ritornello Continental Shift è molto tenorile, baritonale quasi, molto quieta e distesa, mentre in altri casi c'è questo timbro un po' tremolante, questa voce antica che io piazzo sempre in Inghilterra tra il 78 e l'85, non so come dire, per un video che è stato appunto postato giù pomeriggio, che è stato definito retro sci-fi, mentre Continental Shelf è stato definito invece un video disturbante. Tutti e due postati sul nostro Might FM, Radio Kairos, Facebook. Appunto, Livia dice, è la voce Bauhaus, e infatti gli anni sono quelli. Possiamo dire, forse la caratteristica di questo pezzo invece è la sua coerenza, a fronte di, diciamo, una varietà all'interno della stessa canzone. Per esempio si dice che pezzi come March of Progress o Death, visto che sono molto lunghi, potevano fare quattro canzoni separate, in questo caso c'è invece una coerenza stilistica che è proprio New Wave. Questo pezzo è stato definito come pezzo la Joy Division, però più glaciale, e contiene la frase "The simple task of turning me on". Ma siamo arrivati a un altro nome citato in qualche recensione e siccome io non li conosco, non li ho frequentati spessissimo, ne approfitto per ascoltarli e farli ascoltare. E sono i This New Sultans di Southend, Inghilterra, una delle poche eccezioni alla predominanza canadese di questa trasmissione, con We Want War, per un album hit del 2010 che appunto stilisticamente e sonicamente si può avvicinare più al suono dei Vietcong, non certo l'ultimo Field of Dreams, invece molto più sinfonico. Chiamati nelle varie recensioni perché appunto si dice per i suoni industrial e noise alla Throbbing Gristle, quindi per l'anima post-punk di Disney Puritans, come però appena detto, più in un album come Hidden che non nell'ultimo. E anche un'altra recensione di Pretty Much Amazing, una delle più entusiaste, con un 9.1 di voto, dice: Vietcong più tesi dei No Age, più pesanti dei Dirantar e meno astratti dei Disney Puritans. Considerate appunto questi gruppi come i tre punti di riferimento, insomma, più vicini ai Vietcong. Di questo pezzo We Want War, molto bello, abbiamo fatto un editing abbastanza spietato e siamo arrivati alla fine della trasmissione, ma alla fine dell'album, con appunto il tanto nominato Death, che anche qui insomma ce ne sono di cose da dire e di registri da sentire e di emozioni da provare, e ce la usiamo perché appunto dura 11 minuti e 17 per dire tutto quello che non abbiamo detto finora e che volevamo dire. Cominciando, se ce ne fosse bisogno, ricordando che la Jagu Jaguar è anche l'etichetta di Bon Iver, Sharon Van Etten, Angel Olsen, eccetera, quindi insomma garanzia di qualità. E di nuovo abbiamo questo timbro di voce alla Bauhaus. E canzone sulla morte, perché appunto, come abbiamo detto e ridetto, l'esperienza di aver toccato la morte da vicino, più che altro la morte a parte di un amico, quasi di un fratello, ma a 26 anni, fa quasi feticizzare ai Vietcong, invece invecchiare serenamente e morire quando sarà, insomma, quindi il contrario del mito maledetto del rock and roll. Per un disco, come abbiamo detto, eminentemente invernale, infatti chissà come sarà sentirli al caldo, sicuramente a primavera, ma appunto non è detto, ma magari a Porto forse potrebbe essere più freddo, però sicuramente inizio giugno all'Ana B si spera che si spera che non sarà come l'anno scorso e che quindi non farà freddo o non pioverà. Appunto tutte le recensioni che ho letto, interviste, articoli, partono raccontando le vicende dei Women e quindi si fanno degli inevitabili paragoni. Matt Flegel dice: a me non dà fastidio, è chiaro, basta che la gente però non si aspetti che noi suoniamo come i Women, perché siamo un'altra cosa, e l'hanno dimostrato molto bene in questo disco. Questo pezzo Stereo Gamma, a parte che fa un richiamo allo stile di batteria di Joy Division, quello che ritrovo anche io, fa un paragone tra New Order, Vietcong, come Joy Division Women, però fa anche un paragone con Sleater Kinney, perché appunto è considerato anche come il disco più importante uscito parallelamente adesso ai Vietcong, in cui appunto fa paragone con la presenza tutti e due gruppi di due chitarre che non suonano insieme, ma quasi si fanno la guerra, suonano l'una contro l'altra. E definisce Death questo pezzo un pezzo magnifico di come sguardo fisso nell'infinito in stile krautrock, che passa con semplicità da una fase lunare all'altra, sequenze di pezzi azzeccata, tra l'altro, perché dopo Death, come appunto ultimo pezzo del disco, doveva essere l'ultimo, non ce ne possono essere altri. E poi uno sguardo alle recensioni, 10 per Now Magazine. Cassetta apocalittico sperimentale, e invece questo disco omonimo, meno droni e più accessibilità, melodia e coesione, virulenza e impatto, chitarre taglienti, atmosfere fredde, batteria schiaccia-sassi e testi isolati per un risultato molto seducente. Poi dicevo, Pretty Much Amazing è sterile, pari confronti con i Women, ma sono paragonabili perché sono entrambe delle grandi band, e questo disco è enormemente gratificante per seri ascoltatori di musica rock, nominalmente post-punk, ma non potrebbe esistere senza il krautrock, senza appunto la psichedelia di Nuggets, senza il noise o l'indie rock degli anni 90, i primi 2000, la new wave di New York, ma non è una collezione di suoni, ma il culmine, appunto, il progresso in linea retta, questa marcia che parte dal passato e arriva al presente, e invece di pensare per riferimenti si sente per associazione. Invece Explain gli dà 9, dice gli stessi toni cupi e ronzanti, ovvero il suono fisso del drone di cassetta, appunto il suono stesso di cassetta ma più diretto e non convenzionale. Un attimo melodia, un altro furia e percussioni assordanti. È qui che dice che appunto Marco Progress e questa Death potevano essere quattro canzoni distinte tra ambient noise, jungle pop, ovvero tintinnante, dark e post-punk. E sono questi cambiamenti bruschi che mostrano la vitalità e la specificità di questa band. 9 anche per The 405. Band diverse, suono diverso da Women, più cacofonia e approccio post-punk, natura potente e diretta della musica, non nebbiosa e misteriosa come Women, ma appunto più viscerale. Suono più chiaro, pulito, post-punk, avant-garde. Proprio questa velocità. Che dà così forza a questo disco. Altri riferimenti, primi Joy Division, pop group e primi Peel, un disco non ortodosso, elementi discordanti, risultato caleidoscopico. Anche Pitchfork gli ha dato un bel 8,5, Best New Music. Tanti punti di riferimento, ma non è un metadisco. Viet Cong sono ossessionati dalla meccanica, dei processi della loro arte, del loro lavoro, quindi industrial proprio in senso letterale, anche perché insomma fare questi pezzi anche dal vivo richiede una certa fatica fisica, una certa energia. 8,5 anche per The Line of Best Fit. Paura e rumore, disco affilato come un rasoio, come la chitarra di Christiansen. E poi 8 da quasi tutti veramente, tranne qualche eccezione che non scende mai sotto il 6. The Quietus, vitalità impetuosa, insaziabile fame creativa, spin, ambizione musicale, un'opera audace. Enemy, creatura originale nonostante le origini, rumore bianco demoniaco, post-punk metallico, psichedelia prog rock. L'unico 6, Mojo, che dice non ci sono ancora ma ci stanno arrivando, però Rolling Stone che non si capisce quale sia la critica, forse che stanno ancora elaborando il lutto, e io dico embè. Poi tra gli italiani sentire ascoltare 7,2, e dopo questa cavalcata ci salutiamo. Siamo arrivati alla fine di questa puntatona dedicata ai Viet Cong. Ricordiamo in Europa e in Italia tra maggio e giugno. Buon ascolto come sempre con Mighty Fun. Ciao da Claudia Mighty Mouse.